sabato sera e ogni sabato sera fino al 19 di agosto. Ci vediamo a Rimini, discoteca Altro Mondo, ore 22:30. Altro Mondo. Questo sabato, dalle 22:30 alle 2:30, suonerò io, che sono Gigi D'Agostino, quello lì. Dalle 2:30 fino a non so che ora, Provenzano DJ. Minchia che console. Ci vediamo lì. Ci vediamo lì. Ci vediamo lì. Ci vediamo lì. In ogni momento, ma senza una tromba, nessuno strumento. Vi faccio un esempio: alziamo le mani, battiamole a tempo. Creare qualcosa da amare, non voglio fermarmi. continua a parlare. Diamo altro spazio a certi assassini, non guardano in faccia neanche ai bambini. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Da un mondo migliore non siamo lontani, possiamo toccarlo se alziamo le mani. È difficile, ma non per l'amore. Cerchiamo di andare ancora più forte, alziamo le mani, battiamole forte. Piacere, prestiamo attenzione perché non siamo allo snocciolatoio pubblico, eh? Sto mixando, c'è bisogno di concentrazione. Scrivermi il numero di telefono per mandare i vostri sms è il seguente: Sì. No, vabbè, dai. Sì. Sì, vabbè. No, poi dicono... Gigi D'Agostino.

I wonder if you even miss me. Never there, you're never there, you're never ever ever ever there. Flies away, a candle's fickle flame. Hey! To think I held you yesterday, your love was just a game. A golden bird that flies away, a candle's fickle flame. Hey! To think I held you yesterday, your love was just a game. Hey! You tell me that you love me so, you tell me that you care, but when I need you, baby, baby, take the time to get to know me. If you want me, why can't you just show me? We're always on this roller coaster. If you want me, why can't you get closer? Never there, you're never there, you're never ever ever ever there. Never there, you're never there. Di Gigi D'Agostino. In the sky, I feel satellites in the oxygen I've heard. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino e oggi va un po' dappertutto. La storia di un bravo DJ, ma ve la racconto un po' a pezzi, amici miei. C'era una volta un disc jockey che suonava con pinze e martelli, metteva a tempo cacciaviti e bulloni, ma dopo un po' si rompeva lì bastoni. Stava sempre nella sua tana, pensieri belli e vita sana. Si divertiva con la squadra e la riga e non vedeva mai una siga. Scusate, ma mi mancano alcuni finali. Sto improvvisando. Sempre da solo, che strano ragazzo. Sarà anche un genio, ma una testa pelata, una testa pelata. Trovate anche questa. Di notte sentiva delle strane voglie, ma in autunno cadono le foglie e chi dorme poco coglie. Ma lui non cercava moglie. Questa è la storia di un bravo DJ e non posso dir tutto, sono così miei. La storia per ora si ferma qua, ve la racconterò poi un giorno, ma se mi andrà. Ci fermiamo quel minimo, riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Ci ritroviamo tutti i giorni qui alle 18 per cominciare la nostra camminata quotidiana. Se per te è la prima volta, lasciati andare. Unisciti a noi. Alla faccia di chi ci vuole male.